gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando il pane sforno lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella. Amore, gioia primitiva di saper viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre da lontani stai come forever. Acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino. Bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana. Tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai come forever.